La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al presidente della Repubblica Federale Tedesca, Joachim Gauck, che lo scorso 24 marzo è stato ospite del presidente Giorgio Napolitano a Sant'Anna di Stazzema per rendere omaggio alle vittime dell'eccidio nazista del 12 agosto 1944. Ospite ai nostri microfoni la giornalista della Stampa Tonia Mastrobuoni, che ha scritto la prefazione al libro di Gauck, Libertà. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato al nostro rapporto con gli animali. Addomesticati, allevati, sfruttati, gli animali hanno contribuito alla nostra sopravvivenza e fatto di noi ciò che siamo oggi. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Domenica 24 marzo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Presidente tedesco Joachim Gauck si sono recati insieme a Sant'Anna di Stazzema per rendere omaggio alle vittime dell'eccidio nazista del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 civili. Un incontro di grande importanza, di cui si è fatto promotore tra gli altri Enrico Pieri, presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, che è peraltro uno dei pochi superstiti di quella strage. Un incontro che sancisce ai massimi livelli istituzionali i solidi rapporti che legano i due paesi, a quasi 70 anni da quella immane tragedia. Il bilancio è tristemente noto: oltre 15.000 civili persero la vita nelle stragi compiute dai nazifascisti in Italia dopo l'8 settembre del 43. Ora, grazie anche a questo atto di pacificazione, quella pagina è definitivamente chiusa. Con queste parole Enrico Pieri ha commentato l'incontro tra i due capi di Stato. All'epoca dei fatti avevo 10 anni e nella strage persi entrambi i genitori. Verso la Germania avevo molto rancore. Quando De Gasperi nel dopoguerra ci spedì a imparare le lingue, non mi volevo avvicinare a quel paese. Ho trascorso 32 anni da emigrante in Svizzera. Poi si stava formando l'Europa. Come potevo portare rancore a un paese che ne faceva parte? Ho mandato mio figlio a scuola di tedesco. Ho quasi 80 anni. È passato quasi un secolo da quel maledetto 12 agosto. Ora sono e mi sento cittadino europeo. Vedo male il futuro dell'Italia e quello dell'Europa non lo vedo proprio. Ma non voglio essere pessimista. Anche ai ragazzi che vengono a visitare il museo di Sant'Anna di Stazzema dico spesso: mi dovete dare una mano, dovete impegnarvi per il futuro, dovete costruire l'Europa. Ma chi è Joachim Gauck, presidente della Repubblica Federale Tedesca dal 18 marzo 2012? Nato nel 1940 a Rostock, nell'allora Germania dell'Est, Gauck da sempre è attivo politicamente, prima come difensore dei diritti umani nella Germania dell'Est e poi, dopo l'unificazione, come deputato. Nel 1989 diventa presidente della Commissione per il controllo dello scioglimento della Stasi, investigando e aprendo al mondo gli archivi segreti della ex Polizia Politica Federale. È stato uno dei fautori della Dichiarazione di Praga sui crimini del comunismo e sono molti i riconoscimenti internazionali che ha ricevuto per il suo costante impegno a favore dei diritti civili. Il suo impegno è quello di ricercare le basi di una memoria condivisa, non solo tedesca, ma anche europea, partendo dal racconto degli anni bui del comunismo fino agli attuali sviluppi democratici da perfezionare e conservare. Da pochi giorni per le edizioni ADD Editore è in libreria un agile volume dello stesso presidente tedesco dal titolo Libertà. Tonia Mastrobuoni, giornalista della Stampa e attenta analista dell'economia e della politica tedesca, ha scritto la prefazione. Buonasera Tonia e benvenuta. Buonasera. Allora, chi è Joachim Gauck? In primo luogo tu l'hai indagato la figura di questo interessante personaggio e ne hai dato conto nella prefazione, peraltro non molto conosciuto in Italia. Esattamente, e poi lui si cimenta tra l'altro con un argomento molto interessante, perché primo per la storia di Gauck stesso e secondo per la storia della Germania, perché lui stesso dice: noi tedeschi abbiamo un rapporto molto difficile con la libertà, no? E quindi io partirei un po' da qui, cioè lui dice sostanzialmente, ricorda una frase di Heinrich Heine che diceva: mentre il francese o l'inglese amano la libertà come una moglie o un amante, il tedesco ama la libertà come sua nonna. Ha un rapporto un po' ambiguo ambiguo. E quindi io nella prefazione ricordavo un grande scrittore del Novecento, che è stato Thomas Mann, che fece una volta un paragone molto molto efficace su questo, che credo che sintetizzi un pochino questo rapporto un po' difficile che i tedeschi hanno con la libertà. Lui si rifà a Martin Lutero e dice: Lutero è stato in qualche modo l'emblema della libertà interiore dei tedeschi, perché ha tradotto la Bibbia in tedesco e perché ha consentito quindi ai tedeschi di leggere direttamente la Bibbia, avere un rapporto diretto con Dio. D'altra parte però, quando insorgono i contadini nel 1525, lui dice ai principi di massacrarli, perché sulla terra noi dobbiamo obbedire all'autorità terrena. Ecco, questa ambiguità, questo rapporto ambiguo con la libertà è un rapporto ambiguo che lo stesso Glauc ha esperito, perché ricordiamoci che Glauc, vabbè, non solo lui nasce in una famiglia che diventa poi profondamente anticomunista, perché il padre viene rinchiuso 3 anni nei gulag e nessuno dice nulla alla famiglia per ben 2 anni, quindi il padre scompare un giorno, lo viene a prendere la famosa Stasi, appunto la polizia tedesca dell'est, e lui sparisce e la famiglia appunto si prostra per 2 anni senza sapere nulla, e finalmente viene a sapere che è in un gulag, e quindi lui cresce in questo clima proprio di così molto anticomunista, diventa pastore, il che nella Germania Est era già una, in qualche modo aveva un significato di opposizione al regime, no? Era già quasi un gesto di così di presa di distanza sicuramente, e viene infatti spiato dalla Stasi sin dagli anni 70. Peraltro nella prefazione tu ricordi anche il famoso motto di Dietrich Bonhoeffer, il teologo morto nel 45 nei campi di concentramento: la libertà non sta nella fuga, nel pensiero, ma nell'azione. Appunto, credo che Glauc ne abbia fatto... Esatto. L'abbia fatto proprio questo punto di vista, questa linea di azione. Esattamente, perché il primo grande problema quando cadde il muro era quello di un'opposizione in qualche modo stordita, no, da questo evento. Ricordiamoci che una parte dell'opposizione tedesca dell'est sognava una terza via tra comunismo e capitalismo, però una parte dell'opposizione, di cui faceva parte anche Glauc, era proprio stordita, non riusciva a fare i conti con questa libertà. E allora Glauc ci dice in questo pamphlet, ma è qualcosa che lui stesso ha applicato: la libertà va presa, va agguantata, non bisogna avere paura. Io citavo anche Kant nella prefazione, perché i tedeschi dell'est, quando cade il muro, si ritrovano un po' come appunto, no, quando Kant dice ai suoi contemporanei che bisogna uscire dallo stato di minorità, no, e quindi in qualche modo apre all'illuminismo. Lui dice: liberatevi e soprattutto prendete questo potere. I tedeschi dell'est avevano una grande diffidenza nei confronti del potere e dei potenti. Il problema è che lì sono nati i primi conflitti, appunto, tra Glauc e questa opposizione di sinistra. Certo. Conflitti che poi sono, cioè, come dire, lui si è portato dietro anche quando ha assunto un ruolo di capo degli archivi della Stasi, un ruolo delicatissimo e che lui ha esercitato con un enorme equilibrio, questo glielo riconoscono tutti, che però gli ha creato anche, insomma, ci sono state polemiche, certo, perché... lui è stato molto duro con il governo all'epoca della Germania federale, con Schäuble, che voleva spostare gli archivi addirittura ad ovest. Lui è stato irremovibile su questo. D'altra parte, con chi gli chiedeva però di avere una mano più leggera con queste persone che man mano che si aprivano gli archivi, no, si scoprivano moltissime persone, appunto ex collaboratori della Stasi, addirittura ex ufficiali della Stasi, così anche lui lì non ha mai avuto nessun tentennamento. Quindi ecco, è una figura di grandissimo equilibrio, ripeto, che si è preso la responsabilità. Lui subito dopo il muro è stato eletto nelle prime elezioni libere del marzo 1990, quando esisteva ancora la Germania Est, è diventato parlamentare e dopodiché ha assunto questo ruolo molto complicato di capo degli archivi. Lì si nasconde uno dei grandi drammi della Germania di oggi, no? Cioè un paese che, aprendo questi archivi, si è scoperto con appunto centinaia, migliaia di delatori. Sappiamo oggi che il rapporto tra il tedesco dell'est, cioè i collaboratori o informali o formali, erano 1 su 59, è una media altissima ovviamente, no? In questo paese di 16 milioni di abitanti. E anche questa esperienza così diretta, forte, anche drammatica della sua vita, lo porta ad altre due... come dire, concetti forti che sono riportati nel suo libro, che accanto alla libertà sono quelli della responsabilità e della tolleranza. Ecco, Tonio, come si legano questi tre punti nella biografia e politica, direi, di Gauck? Sì, esattamente un po' quello che dicevo poc'anzi, il fatto di dire prendiamoci questo potere che abbiamo nei confronti dei quali lui lo dice, naturalmente con cittadini della Germania Est, no? Lui dice libertà non è libertà solo da qualcosa, no? Libertà anche verso qualcosa. E qui cita anche per esempio la parabola di Robespierre, sì. L'orrore che un grande scrittore come Friedrich Schiller aveva nei confronti appunto della deriva rivoluzionaria, no? Lui dice, lui si confronta con queste persone, davvero, che dopo l'89 volevano continuare a vivere in questa rivoluzione perenne, e invece lui dice non dobbiamo solo liberarci da qualcosa, dobbiamo tendere verso qualcosa, e questo tendere verso qualcosa è un ordine nuovo, e lui per esempio non ha mai avuto dubbi che questo ordine dovesse essere l'ordine democratico capitalista. D'accordo, grazie Tonia, molte grazie per queste precisazioni. Allora, Tonia Mastrobuoni, che ha scritto la prefazione di questo bel libro Libertà di Joachim Gauck. Buona serata, grazie ancora. Grazie a voi. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato al nostro rapporto con gli animali. All'inizio della nostra storia è stato il lupo ad aiutarci a cacciare, poi il cavallo a viaggiare più velocemente. Il cammello ci ha permesso di attraversare deserti sconfinati. Altri animali, invece, ci hanno portato malattie e distruzione. Noi sopravviviamo nel mondo naturale grazie al nostro rapporto con tutte le creature che vivono in esso. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 1 aprile alle 23 su History Channel. La nostra superiorità rispetto agli altri animali inizia nel momento in cui addomestichiamo il lupo. Poi, oltre 5.000 anni fa, in Asia centrale, addomestichiamo il cavallo. Il cavallo moltiplica la nostra forza e velocità. Possiamo spostarci a una velocità 4 volte superiore a quella della corsa. I cavalli ci danno un enorme vantaggio in un'altra grande occupazione umana, la guerra. La capitale della Cina è sotto attacco. Un esercito di 50.000 guerrieri. La più grande cavalleria del mondo. Il loro comandante, Gengis Khan. Il condottiero più sanguinario della storia umana. Riunisce i mongoli e avvia una campagna di conquista che cambierà il mondo. Uccide 40 milioni di persone. I mongoli imparano a cavalcare all'età di 3 anni. Richard McMachovitz, esperto militare ed ex Navy SEAL. Per il popolo mongolo il cavallo è come un membro della famiglia. Qualunque abilità abbia, viene praticata in sella a un cavallo. La velocità e l'altezza del cavallo danno loro un senso di superiorità. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Quando incontrano degli uomini a piedi, i mongoli li vedono come pecore. Possono spaventarli, intimidirli e gli altri scappano. I guerrieri mongoli hanno 4 cavalli a testa. Possono dormire e mangiare in sella. Sono addestrati a usare le loro armi andando al galoppo. Richard McMachovitz. La loro più grande abilità sul campo di battaglia è quella di spostarsi a grande velocità. È il primo esempio di guerra lampo. Significa poter entrare a cavallo in un villaggio, saccheggiarlo e sparire. Percorrono circa 160 km al giorno. L'armata mongola rimane la più veloce del mondo. Fino alle guerre lampo dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Grazie ai cavalli riescono a schiacciare l'impero cinese. George Wunderlich, Museo Nazionale della Medicina nella Guerra Civile Americana. Con l'addomesticamento dei cavalli, i mongoli diventano i padroni del loro tempo. I mongoli creano un immenso impero. più di 23 milioni di chilometri quadrati che si estendono dalla Cina all'Europa. I guerrieri a cavallo hanno mostrato come il rapporto con questi animali abbia dato loro un vantaggio rispetto a tutti gli altri. Ma i cavalli non sono adatti al deserto. Occorre un altro animale se si vogliono conquistare queste vaste distese di terra desolata. Un animale straordinario che si è evoluto per vivere nelle regioni più aride del mondo. Porta l'umanità attraverso i deserti più grandi del pianeta. Il cammello. Il commercio fiorisce grazie al cammello. Permette la diffusione degli scambi, della cultura, delle idee e perfino della religione. Risa Aslan, autore di No God But God. La teologia tradizionale islamica dice che Maometto era un mercante. Suo zio, molto potente, aveva dato a Maometto la possibilità di entrare a far parte della sua attività di commercio con le carovane, che trasportavano beni e materiali dentro e fuori dalla penisola araba. Maometto è il fondatore di una nuova e potente religione, l'Islam. Le vie commerciali favoriscono la diffusione dei suoi insegnamenti in tutto il Medio Oriente e oltre. Risa Aslan. La diffusione dell'Islam nei primi due secoli dopo la morte di Maometto ha del miracoloso. Di conseguenza, l'Islam diventa la religione con la crescita più rapida al mondo. In 100 anni, dal Mar Arabico a est al Nord Atlantico a ovest, fiorisce una nuova civiltà. Un nuovo impero islamico. I cammelli favoriscono lo sviluppo di una delle maggiori religioni del mondo in Medio Oriente, in Cina e in Europa. Ma portano anche qualcos'altro più prezioso dell'oro. Un prodotto derivato da un bruco che fa nascere l'incontro fra due grandi imperi. Cina. Un impero di 60 milioni di persone. Circa 6 milioni e mezzo di chilometri quadrati. Totalmente sconosciuta all'Occidente. Qui hanno domato una creatura non più grande di un ditale e che attira gli occidentali in Estremo Oriente. Il baco da seta. Questo piccolo bruco produce una fibra di proteine che tesse in un unico filo continuo lungo 1600 metri, è più resistente dell'acciaio. Immerso nell'acqua bollente, il filo si dipana e può essere tessuto per farne bellissime stoffe. Nell'antica Roma, la seta è venduta a peso d'oro. I romani credono che cresca sugli alberi. Timothy Brook, Università della British Columbia. Se hai sempre vissuto indossando solamente il saio e la lana, poter indossare un indumento di seta diventa un'esperienza straordinaria. La Cina conosce il valore della seta come bene da esportare. È un segreto che la Cina ha custodito per 3.000 anni. Timothy Brook. La manifattura della seta è un segreto di Stato in Cina. Nessun tessitore cinese può rivelare questa informazione ai forestieri. Per i successivi 300 anni, la Cina rimane l'unico paese al mondo che può produrre la seta. Incredibilmente, questo piccolo bruco unisce due dei più grandi imperi di tutti i tempi, romano e cinese. Ma soprattutto, crea una via commerciale conosciuta come la Via della Seta. Tuttavia, i beni che viaggiano su questa strada giungeranno con un prezzo altissimo. Un animale indesiderato entra in Europa attraverso questa via. Porta con sé morte e distruzione in dimensioni senza precedenti. Mehmet Oz, ospedale presbiteriano di New York. Moltissime malattie comuni di cui abbiamo più timore, sifilide, tubercolosi, vaiolo, peste bubbonica, derivano dal vivere molto vicino agli animali allevati. Prima dell'allevamento siamo più o meno privi di malattie. Ma quando diventiamo sedentari e addomestichiamo gli animali, i microbi letali passano dagli animali agli uomini. Ali Eskan, centro statunitense per il controllo. Probabilmente sono quegli animali che ci hanno trasmesso i principali killer dell'umanità. C'è una specie che si evolve di pari passo con gli uomini, il ratto. Piccolo e abbastanza veloce per evitare la cattura, vive fra noi in modo quasi impercettibile. Ali Eskan. Per molto tempo le persone non hanno capito che le malattie erano associate ai ratti. I ratti sono i portatori di una malattia invisibile che spazza via quasi un terzo della popolazione d'Europa. Un gran numero di ratti si sta spostando. Scacciati dalle inondazioni in Asia, prendono un passaggio lungo la Via della Seta dagli uomini che portano le merci ed entrano in Europa. Patrick Hunt, Università di Stanford. Insieme ai ratti ci sono le pulci. E le pulci, come sappiamo, sono portatrici di parassiti. Quando questo minuscolo parassita si insedia nel corpo umano, diventa un killer spietato. Fa diventare il corpo nero per le infezioni. Per questo la malattia è conosciuta come morte nera o peste. Mike Lodes, storico militare. I germi non si vedono a occhio nudo. La malattia non si vede. È un killer silenzioso e indiscriminato. La peste può uccidere nel giro di pochi giorni e devasta l'umanità. I ratti ne sono la causa. Mehmet Oz, ospedale presbiteriano di New York. Durante la peste bubonica muore un quarto della popolazione europea. Sebbene gli animali siano la causa di molte malattie che minacciano la nostra esistenza, sono anche diventati la nostra arma principale nella lotta contro la malattia. È l'alba dell'età della scienza. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Dopo il fuoco e l'agricoltura, il metodo scientifico è probabilmente il dono più grande dell'umanità al futuro. 500 anni dopo la morte nera, un uomo inizia a dedicarsi allo studio degli animali per la conoscenza che hanno del mondo. Le diverse variazioni fra esemplari di animali presi in luoghi isolati lo portano a prendere in considerazione un collegamento fra tutta la vita animale. Egli suggerisce una risposta al nostro legame con gli animali. Charles Darwin formula l'ipotesi audace che gli uomini discendano dagli animali. Sam Sheridan, autore di Cuore guerriero. La ricerca degli storici naturali sul mondo naturale ha aperto la strada per cominciare a guardare a noi stessi in maniera più scientifica. Visto che gli animali sono i nostri cugini più vicini, gli scienziati hanno cominciato a studiare come possono aiutarci nella lotta contro le malattie. Mike Lodes, storico militare. Molti dei nostri progressi nella scienza medica, molte delle grandi innovazioni, vengono dallo studio degli animali. Gli animali ci hanno permesso di sopravvivere e svilupparci fino a diventare ciò che siamo oggi. Il lupo ci ha aiutato a sfamarci. Il cavallo a viaggiare più velocemente, il cammello ci ha permesso di attraversare deserti sconfinati. Ma altri, come il ratto, ci hanno portato malattie e distruzione. Noi sopravviviamo nel mondo naturale grazie al nostro rapporto con tutte le creature che vivono in esso. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Mankind, le 12 chiavi del successo, il mondo animale. Regia di Youf Ballantyne, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione EITN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 1 aprile alle 23 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.